voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Andrea Montelpare, mettersi nelle scarpe dei bambini, di Anna Marino. Sicuramente è più bello lavorare per i bambini piuttosto che per gli adulti, perché con i bambini ci si diverte, si ha a che fare con un mondo diverso, un mondo, se vogliamo, anche perché no, migliore, con persone appunto che talvolta, tipo i genitori, che scelgono per i bambini, ma molto spesso anche i bambini stessi scelgono per loro, e c'è questa combinazione tra la mamma piuttosto che la zia, piuttosto che il papà e il bambino stesso, e quindi si ha a che fare con un intero mondo. Prima che essere clienti, sono bambini. Questo il pensiero costante di chi si occupa della loro comodità nel muovere i primi passi, nell'esplorare. Come Andrea Montelpare, seconda generazione di un'azienda calzaturiera marchigiana, specializzata nella produzione e distribuzione di scarpe di alta qualità per bambini, affermatasi a livello internazionale. I primi passi del suo cammino professionale, Andrea Montelpare li muove infatti nella bottega del padre, Giovanni, da adolescente. Lì respira la passione, vive il mestiere, apprende da autodidatta tutti i segreti del mestiere. Poi, nel 1993, fonda l'azienda che porta il suo nome a Fermo, nel cuore del più importante distretto calzaturiero italiano. La produzione, secondo Montelpare, è un mondo di cui tutti abbiamo forse nostalgia, a colori pastello. Ma tutto è molto bello, perché poi ci si diverte anche molto. Con i bambini è sicuramente meglio, si gioca di più, si riesce a divertirsi, appunto, mentre con gli adulti talvolta siamo un attimino più seri. Le scelte vengono fatte principalmente legate alla moda, legate al momento, legate alla tendenza. Invece con i bambini si riesce appunto a giocare, a fare qualcosa di diverso, qualcosa di su misura per il bambino, sempre con uno spirito divertente, sempre con maggiori energie rispetto agli adulti, con tante voglie, dovendo mixare e miscelare un po' tutto quanto. Quindi questo ci porta a lavorare, sì, lavorare molto, ma divertirci pure insieme a loro. L'arte appresa in famiglia però dà sostanza alle sue parole e alla credibilità dei suoi prodotti, grazie soprattutto ai messaggi del padre e del territorio marchigiano. La famiglia ha influito molto, perché vivere e crescere in una famiglia che faceva già da tempo questo lavoro è stato molto importante e fondamentale, non solo per il lavoro ma anche per i valori, perché mi ha insegnato il rispetto, l'educazione, l'equilibrio, la parola data. Poi io, venendo da un territorio quale le Marche, da un distretto come il nostro, dove la parola vale più di ogni contratto, e questi sono elementi fondamentali che mi porto dietro con orgoglio e con stima rispetto ai miei genitori, rispetto al nostro territorio, rispetto alla nostra gente, alla nostra cultura, e questo è indimenticabile, oltre che sicuramente bello, perché è un qualcosa che va al di là delle strategie, al di là dei programmi, al di là degli obiettivi, al di là di tutto, ma si ha a che fare talvolta con persone veramente, ancora, come si osa dire dalle mie parti, come era una volta. Un giorno a bottega dal padre Giovanni, indelebile. Per Andrea Montelpare. Bellissimo, perché poi mi divertivo, oltre che ogni tanto ne combinavo qualcuna, però devo dire che i miei genitori, più che rimproverarmi o sgridarmi, hanno tentato, e credo che ci sono anche riusciti, di insegnarmi qualcosa. Il lavoro, il mestiere, cosa che io non dimentico, anche se purtroppo per fortuna mi devo occupare anche di altro. E poi il rispetto per le persone. Ho visto e mi sono occupato un po' di tutto, sebbene non ho imparato bene a fare tutto, però diciamo un po' di tutto l'ho visto e credo di saperne pure un po', se non tutto. Ma la cosa più importante che ricordo, al di là del lavoro, è il rapporto umano. Basta pensare che ancora oggi in azienda da noi il lei non esiste, cioè il tu, e non è lo you anglosassone, è tu e basta. La produzione avviene per intero nel Fermano e il contributo manuale è ancora prevalente. Le fasi di lavorazione tipicamente artigianali si integrano alla filiera di tipo industriale. Così si spiega la tenacia nel portare avanti la sapienza del territorio, nonostante anche agli inizi dell'attività ci fossero segnali di crisi. Più di 20 anni fa ho deciso in maniera abbastanza naturale di fare questo lavoro. Erano già momenti in qualche modo difficili, alcuni miei colleghi, oltre che la mia famiglia, mi diceva che gli spazi erano ridotti, si già parlava di crisi, di problemi, però ciononostante ho voluto credere in questo lavoro, ho voluto proseguire nella esperienza familiare e un po' della mia realtà locale, territoriale, eccetera, per cui ho creduto creduto fortemente nelle possibilità che ancora c'erano e ancora ci sono, per cui eccomi qua. Innovazione fin da subito e alcuni segreti di buon senso per cominciare, che poi sono stati utili per attraversare tutte le difficoltà che si sono presentate. Io ho iniziato con pochissime persone, era poco più che un laboratorio artigiano. Si parlava di crisi, ma visti i momenti che stiamo attraversando, veramente era qualcosa di esagerato parlare di crisi, però diciamo iniziavano delle preoccupazioni. Questo è stato un elemento fondamentale per me, cioè la preoccupazione mi è servita per cercare di innovare, di fare qualcosa di diverso, di unire al mestiere, alla qualità, alla moda, alle tendenze, alla internazionalizzazione, pensare a dimensioni diverse, cioè le preoccupazioni sono state in qualche modo utilizzate positivamente per riuscire a generare dei migliori risultati. Perché poi il nostro è un lavoro fatto da tante persone, da tante mani, i nostri sono collaboratori, non sono dipendenti, sono amici piuttosto che maestranze, e c'è questo clima, questo rapporto che sicuramente lo ritroviamo poi nel prodotto. È lo spirito di servizio verso gli altri che lo porta per più anni ad assumere incarichi associativi, dapprima come presidente dei giovani imprenditori e successivamente presidente sezione calzaturieri di Confindustria Fermo, poi vicepresidente per due mandati dell'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani e presidente della Commissione Russia e Paesi dell'Est per la stessa associazione e infine presidente onorario dell'Associazione Internazionale Calzature e Salute. Questo è quello che ha spinto Andrea Montelpare, ricordando che è sempre necessario un ricambio, anche nelle associazioni. Ma credo che ognuno di noi per un certo periodo deve anche mettersi a disposizione. Io l'ho fatto con piacere, lo ricordo in maniera eccezionalmente positiva, poi chiaramente dopo di me è bene che se ne sia occupato qualcun altro, perché poi il turnover, il cambiamento è comunque necessario ed è opportuno, per cui io l'ho fatto per un certo periodo e poi ho cercato di accompagnare chi arrivava dopo di me. La Andrea Montelpare S.p.A. è una consolidata realtà nel settore a livello internazionale, con una significativa quota export che supera l'85% del fatturato. Le sue calzature vengono esportate nei paesi del Medio Oriente, in Russia e Stati Uniti, così come nel Far East, in Giappone, Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud. Le difficoltà nel crescere sono fondamentali. Io infatti non amo parlare della crisi, ma amo parlare delle crisi, perché in effetti stiamo vivendo una serie di crisi, cioè quello del dimensionale, quello della internazionalizzazione, la concorrenza di paesi emergenti, la contrazione dei consumi, un'Europa che viaggia ad una velocità sicuramente diversa rispetto ad altri mercati e ad altre aree del mondo, e tutte queste cose se si affrontano insieme, se si gestiscono insieme, se si cercano le soluzioni insieme agli altri, probabilmente si riesce meglio a gestire, meglio anche ad uscirne fuori, perché no? Con le cariche istituzionali e insieme ai premi per i propri marchi arrivano per Andrea Montelpare le licenze. Nel 2004 è vincitore del premio European Kids Fashion Award nella sezione Shoes con il marchio Andrea Montelpare. Nel 2007 vince il premio Label of the Year nella sezione Shoes del concorso europeo con il marchio Bumper. Ma io non so se ho meritato questi riconoscimenti, e comunque ho sempre creduto che anche in questi momenti non si può arrivare da soli ma insieme agli altri, quindi li ho sempre dedicati, oltre che a tutti i miei collaboratori, anche ai miei colleghi, al mio territorio, alla mia terra, al mio distretto, perché soltanto grazie a questo sono riuscito a conquistare, spero meritatamente, questi riconoscimenti. E il portfolio via via si arricchisce di marchi. Ci sono stati anche Miss Blue Marine, Young Versace, 1950 i Pinco Pallino, i Pinco Pallino Imelde e Stefano Cavalleri, Chupa Chups. Il Made in Italy è strategico. Ci sono tante sfide, tanti cambiamenti, sicuramente quello di riuscire a fare cose belle come soltanto noi italiani riusciamo a fare, a continuare a far sì che il Made in Italy rappresenti qualcosa di unico, che ci renda diversi, che ci renda più interessanti rispetto ad altri mercati, rispetto ad altri paesi. Questo già di per sé è un gettare le basi su un qualcosa di completo, qualcosa che ci aiuta globalmente a superare questi momenti. Forse se c'è una cosa dobbiamo possiamo dire che dovremmo imparare un po' di più e un po' meglio a vendere piuttosto che ad essere comprati. Ma è un po' il problema italiano, perché se pensiamo anche ad altri settori si vive un po' la stessa situazione. Certamente anche nella moda i prezzi sono importanti, ma la guerra al ribasso non paga, soprattutto per i bambini. Prezzo è un elemento che talvolta, soprattutto in questo momento, assume una importanza non trascurabile, però non è l'unico elemento. Certo è che dobbiamo ancora lavorare per evitare che arrivino nel nostro paese e nei vari mercati prodotti non ben fatti o addirittura che possano generare problemi ai bambini. Nel nostro caso è ancora più importante, perché mentre un adulto può percepire più facilmente un prodotto non ben fatto che genera problemi, invece il bambino magari se ne deve accorgere la mamma e può appunto essere un po' più lungo il processo per individuare un buon prodotto piuttosto che un altro. Io dico sempre di diffidare dal prezzo, perché un prezzo troppo basso talvolta o sempre addirittura nasconde problematiche che appunto sono legate alla qualità, perché no, anche alla tossicità a volte, cioè tutta una serie di problematiche si porta dietro che non giovano alla salute del piede, alla salute del bambino, alla salute delle persone. E sempre pensando ai bambini, bisogna vivere la produzione, addirittura facendola provare in prima persona ai piccoli nelle scuole. Quando testiamo i nuovi prodotti, le nuove collezioni, e lo facciamo spesso nelle scuole o talvolta anche in azienda insieme ai bambini, dove veramente tutto diventa un circo. E poi gliele regaliamo pure, ovviamente, perché poi ci pensano loro a dire: questa la voglio, l'altra dalla a me, no, piuttosto la voglio io. E quindi sono momenti bellissimi, perché i bambini tra di loro giocano, scherzano e riusciamo a fare qualcosa per noi importante insieme a loro, con loro, e lasciandogli anche un buon ricordo quando vanno a casa, perché hanno la scatola sotto al braccio. La sua è un'eredità di sapienza e tenacia, sacrificio e creatività che si trasmettono da generazioni in un territorio ad altissima vocazione calzaturiera e a fortissima identità, che Andrea Montelpare fotografa così. Comunque sia, mantenere sempre la schiena dritta e non dover mai abbassare il viso quando si incontra qualcuno, perché comunque si fanno sempre le cose in maniera seria e ben fatta. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.